Sezione trentunesima della Divina Commedia Il Paradiso di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto trentunesimo. In forma dunque di candida rosa mi si mostrava la milizia santa che nel suo sangue Cristo fece sposa. Ma l'altra, che volando vede e canta la gloria di colui che l'innamora e la bontà che la fece cotanta, sì come schiera d'api che s'infiora una fiata ed altra si ritorna là dove il suo lavoro s'insapora, nel gran fior discendeva che s'adorna di tante foglie e quindi risaliva là dove il suo amor sempre soggiorna. Le facce tutte avean di fiamma viva, e l'ali d'oro, e l'altro tanto bianco, che nulla neve a quel termine arriva. Quando scendea nel fior di banco in banco, porgevan della pace e dell'ardore che egli acquistavan ventilando il fianco. Nell'interporsi, tra il di sopra e il fiore, di tanta plenitudine volante, impediva la vista e lo splendore, che la luce divina è penetrante per l'universo, secondo che degno, sì che nulla la puote essere ostante. Questo sicuro e gaudioso regno, frequente in gente antica ed in novella, viso ed amore avea tutto ad un segno. O trina luce, che in un'unica stella scintillando lor vista si gli appaga, guarda quagliuso alla nostra procella. Se i barbari, venendo da tal plaga, che ciascun giorno dedice si cuopra rotante col suo figlio ond'ella è vaga, veggendo Roma e l'ardua sua opra, stupefaceansi, quando laterano alle cose mortali andò di sopra, io, che era al divino dall'umano e all'eterno dal tempo venuto e di Fiorenza in popol giusto e sano, di che stupor dovea esser compiuto? Certo, tra esso e il gaudio mi facea libito non udire e starmi muto. E quasi peregrin che si ricrea nel tempio del suo voto riguardando, e spera già ridir come egli stea, sì per la viva luce passeggiando menava io gli occhi per li gradi, mo su, mo giù e mo ricirculando. E vedea visi a carità suadi d'altrui lume fregiati e del suo riso, ed atti ornati di tutte onestadi. La forma general di paradiso già tutta il mio sguardo avea compresa, in nulla parte ancor fermato viso, e volgeami con voglia riaccesa per dimandar la mia donna di cose di che la mente mia era sospesa. Uno intendeva ed altro mi rispose, credea veder Beatrice e vidi un sene vestito con le genti gloriose. Diffuso era per gli occhi e per le gene di benigna Letizia, in atto pio, quale a tenero padre si conviene. Ed ella ov'è? Di subito diss'io, ond'egli, a terminar lo tuo disiro, mosse Beatrice me del luogo mio. E se riguardi su nel terzo giro del sommo grado, tu la rivedrai nel trono che suoi merti la sortiro. Senza risponder, gli occhi su levai, e vidi lei che si facea corona, riflettendo da sé gli eterni rai. Da quella region che più su tuona, occhio mortale alcun tanto non dista, qualunque in mare più giù s'abbandona. quanto lì da Beatrice la mia vista. Ma nulla mi facea, che sua effige non discendeva me per mezzo mista. O donna, in cui la mia speranza vige, e che soffristi per la mia salute in inferno lasciar le tue vestige, di tante cose quante io ho vedute, dal tuo podere e dalla tua bontate riconosco la grazia e la virtute. Tu m'hai di servo tratto a libertate per tutte quelle vie, per tutti i modi che di ciò fare avean la potestate. La tua magnificenza in me custodi, sì che l'anima mia, che fatta hai sana, piacente a te del corpo si disnodi. Così orai, e quella, sì lontana come parea, sorrise e riguardommi, poi si tornò all'eterna fontana. E il santo Sene, acciò che tu assommi perfettamente, disse il tuo cammino, a che priego ed amor santo mandommi, vola con gli occhi per questo giardino, che veder lui t'accenderà lo sguardo più a montar per lo raggio divino. E la regina del ciel, ond'io ardo tutto d'amor, ne farà ogni grazia, perro ch'io sono il suo fedel Bernardo. Qual è colui che forse di Croazia viene a veder la Veronica nostra, che per l'antica fama non si sazia, ma dice nel pensier finché si mostra: Signor mio Gesù Cristo, Iddio verace, or fu si fatta la sembianza vostra? Tale era io mirando la vivace carità di colui che in questo mondo contemplando gustò di quella pace. Figliuol di grazia, questo esser giocondo, cominciò egli, non ti sarà noto tenendo gli occhi pur quaggiuso al fondo. Ma guarda i cerchi fino al più remoto, tanto che veggi seder la regina, cui questo regno è suddito e divoto. Io levai gli occhi e, come da mattina la parte oriental dell'orizzonte soverchia quella dove il sol declina, così, quasi di valle andando a monte, con gli occhi vidi parte nello stremo vincer di lume tutta l'altra fronte. E come quivi, ove s'aspetta il temo che mal guidò fetonte, più si infiamma e quinci e quindi il lume si fa scemo, così quella pacifica oria fiamma nel mezzo s'avvivava ed ogni parte per igual modo allentava la fiamma. E da quel mezzo, con le penne sparte, vid'io più di 1000 angeli festanti, ciascun distinto e di fulgore e d'arte. Vidi quivi a lor giuochi e da lor canti ridere una bellezza che Letizia era negli occhi a tutti gli altri santi. E s'io avessi in dir tanta divizia quanto ad immaginar, non ardirei lo minimo tentar di sua delizia. Bernardo, come vide gli occhi miei nel caldo suo calor fissi ed attenti, gli suoi con tanto affetto volse a lei che i miei di rimirar fe più ardenti. Fine del canto 31.